17 agosto 2015, tramonto nei dintorni di Hirlingen. Sono su un prato, vicino a una strada statale. Questa sera ho rinunciato a bere la Schnaps, l'ottimo liquore croato che ha portato un conoscente serbo. Sono qui su questo prato a rilasciare le ultime impressioni prima che la giornata finisca. Credo che giornate come questa possano rasentare la perfezione per me, specie a quest'ora. Una farfalla azzurra si sta muovendo tra gli ultimi raggi del sole da un fiore all'altro. Io sono appoggiato a un vecchio albero di prugne. E alcune sono mature, mi basterebbe allungare il braccio per raccoglierle. Di fronte a me c'è un prato recintato, dove durante il giorno pascolano diverse mucche. L'erba è alta, ma mi hanno detto di non temere nulla. Non ci dovrebbero essere insetti o altri animali in grado di pungermi, sto camminando quasi scalzo. Il sole non è ancora completamente tramontato, ma qui la sera arriva all'improvviso. Perché dunque questa perfezione, quando sono a soltanto poche centinaia di metri da una strada, dove qualche macchina passa? Perché questi campi qua, che vedo dalla finestra dello studio della casa che mi ospita, dicevo, questi campi in autunno si copriranno di neve ed io sto camminando esattamente nei punti che nell'inverno scorso osservavo con invidia dalla finestra dello studio, ascoltando la musica degli Ashra Temple e lasciandomi ispirare i testi nuovi. Io so che in un posto come questo, specie da questo momento in poi, quindi dalla fine di agosto fino all'autunno e tutto l'inverno, io potrei essere molto felice. Eppure dovrò fra poco partire per tornare in Italia. Da qui l'Italia non mi è sembrata mai tanto lontana. E quando dico da qui intendo dalla Germania. Da questo viaggio ho tratto nuovamente ispirazione, specialmente dalle passeggiate nei boschi, dal contatto con gli animali selvatici e dall'amicizia che ho fatto con un caprone che abita in una baracca qua vicino. Ora mi sto allontanando dalla strada asfaltata. Sto passeggiando lungo una divisione di alberi molto alti e sto andando verso il bosco. Tra me e il bosco c'è un campo di grano tagliato, degli alberi di mele e qualche altro albero sparso, qualche cespuglio. Forse qualche animale, come qualche settimana fa, no, come qualche giorno fa, abbiamo visto una volpe e una lepre. Però era più tardi di ora. È un peccato che quello che ho tra le mani in questo momento sia solo un microfono e non riesca a registrare la bellezza della luce che invece mi entra negli occhi. Il sole sta tramontando tra questi due alberi. Questi luminosi tramonti tedeschi, queste lente agonie di sangue nel cielo, questo vento che non è ancora vento nordico, perché potrei trovare questo vento anche sull'Appennino. Eppure, fra qualche settimana o qualche mese, questo vento sarà così sferzante in questo punto che sarà quasi impossibile starci, come a dicembre, gennaio scorsi, quando proprio in questi prati, neppure con il cappotto lungo e i guanti, riuscivo a stare in pace, mi sentivo mordere da tutte le parti. Il gelo qui morde più di tante bestie, che ti mordono invece sull'Appennino, di tante zanzare, di tante serpi che ti possono insidiare il calcagno, come dicono le sacre scritture. Questa collina è popolata da persone silenziose. Ciascuna di esse vive in una piccola casa, piccola per modo di dire, piccola se raffrontata nei grandi palazzi delle metropoli. E parlando con loro ho capito che questa comunità ha come stretto una sorta di tacito accordo, e l'accordo si basa sul silenzio. A tutte le ore bisogna fare silenzio, bisogna fare in modo che il vicino non senta la voce di tutti gli altri. Ma a volte, passeggiando per le strade che separano una casa dall'altra, si ha quasi l'impressione di disturbare anche soltanto respirando, perché c'è un silenzio così profondo che il respiro diventa una voce, diventa qualcosa che forse qualcuno con una finestra socchiusa potrebbe ascoltare, potrebbe decifrare. In fondo, dove sto guardando adesso, e che chiaramente il microfono non riesce a registrare, c'è una torre di avvistamento per gli uccelli. Ce ne sono diverse disseminate qui nei dintorni, sembrano delle torrette dalle quali delle improvvisate sentinelle montano la guardia a chissà quale accampamento o palazzo. Quella però, rispetto a tutte le altre che ho visto, è la mia preferita, perché si trova esattamente in mezzo a un campo di grano, è isolata rispetto al bosco. E quando gli si arriva dalla sinistra, dal sentiero, che poi prosegue dentro il bosco, si ha una prospettiva strana, una cinquantina di metri prima di raggiungerla, perché ci si trova con la torretta perfettamente isolata in mezzo a questo campo giallo. Sullo sfondo la collina declina dolcemente, lasciando intravedere le colline più lontane, che hanno un colore più scuro. E sulla sinistra degli alberi altissimi fanno spiccare la sagoma del bosco, che poi si infittisce con i vari sentieri. Ho fatto diverse riprese, diverse foto di questa torretta, come la chiamo io, perché mi dà esattamente il senso di quella nobile solitudine che io amo trovare in questi posti. Questo senso di distinzione in mezzo all'erba, di fiera distinzione, che ti porta però a dover trovare il coraggio di affrontare il vento, di affrontare tutto quello che l'essere così allo scoperto in mezzo a un prato comporta. Ed è lo stesso che lo stare tra la gente, la solitudine di una persona tra le persone è qualcosa di evidente, perché anche se una persona si trova in mezzo a un gruppo di altre persone e però dentro di sé è sola, vuole proteggere la propria solitudine, bene, spicca non meno di quella torre in mezzo al prato. Non occorre staccarsi dalla società per rivendicare la propria solitudine. Certo, sarebbe una scelta esteticamente più apprezzabile, e una scelta forse esteticamente anche più appagante. Però coltivare la propria solitudine in mezzo alle persone senza farsi distrarre da esse, penso che dia la stessa dignità di quella torre in mezzo al prato. Che poi questa torre è fatta degli stessi legni del bosco, Quindi è un po' come se fosse un albero trapiantato e ricostruito in una forma diversa in mezzo al bosco. Un albero che si fosse umanizzato, che avesse cercato di avere una forma diversa da quella di tutti gli alberi intorno. Si fosse costruito per rappresentare qualcosa di diverso. Ecco, io in quella torre mi riconosco molto, perché mi sento fatto delle stesse pulsioni, delle stesse ansie degli altri esseri umani, ma sento il bisogno di questo isolamento, di questo dignitoso distaccarsi dallo sfondo, non per farsi notare, ma per servire a qualcosa di diverso. E lo dico fuori di metafora, essendo pure una persona che, come i tronchi di quella torre, amavano stare nel bosco, e io amavo stare in mezzo agli uomini, amo anche in certi momenti stare in mezzo agli uomini. E che bello in questo momento ascoltare i giochi dei bambini alle mie spalle e sentire i versi degli animali di fronte a me. Sono giochi diversi. Forse anche questo animale di fronte a me sta giocando. Sta chiamando un suo simile a un gioco. O forse sta lottando per la sopravvivenza, per il cibo, per l'accoppiamento. La stanchezza che avevo stando in casa sembra passata. Mi sento quasi rinato in mezzo a questo prato. Prima ero così oppresso dal silenzio astratto della casa. Sembra strano, ma quando ci si rinchiude dietro a un perimetro di mura e si costruisce questo perimetro in un silenzio tanto naturale, il silenzio artificiale che si crea dentro quel perimetro può stancare il cervello. Fare più silenzio nel silenzio, distillare quasi dal silenzio della natura un silenzio astratto, più umano, rischia di essere dannoso, deleterio. Ecco, sto avviandomi verso il fossato, lasciandomi il sole alle spalle, il fossato dal quale provenivano quei rumori, quei canti. Ora ci sono gli uccelli. Purtroppo senza occhiali non riesco a vedere molto lontano. Quindi non so se da qualche parte c'è qualche animale che adesso si sta muovendo, avendo fiutato il mio arrivo, avendomi visto. Chi lo sa. Lontano qua sulla destra, adesso mi incammino verso di loro, ci sono due pozzanghere. Due pozzanghere sulla strada di pietra. E viste da qua mi ricordano un quadro di Segantini, con il sole al tramonto, ormai quasi dietro le montagne, e la luce che le accende, una luce bianca che spicca sul grigio della pietra. Qui di fronte un altro albero di mele, grande e dignitoso, con i suoi frutti rossi e gialli, che sembrano staccati da un quadro di Chagall. C'è molta pittura in questa mia passeggiata. Nonostante, come si sente in sottofondo, ci siano anche molte macchine, quindi molta umanità, forse un po' deleteria. Ora penso che questa sera, rientrando, starò ben lontano da qualunque distrazione portata dalla musica, che pure mi ha fatto compagnia in questi giorni. Starò ben lontano, naturalmente, dalle meditazioni dei liquori croati. Mi stenderò sul letto e, lasciando soltanto una piccola fessura d'aria passare dalla finestra, entrare dal bosco e riversarsi sul letto, leggerò qualche pagina di teoria dei numeri. Quello che mi ha accompagnato in questo viaggio di 2 settimane ai bordi della Foresta Nera è stato un libro sulla storia della teoria dei numeri, in particolare sul problema di Riemann e sul problema fondamentale dei numeri primi, della loro imprevedibilità, della loro casualità, quasi fossero un dado che la natura si è divertita a lanciare per generare tutti gli altri numeri. Leggerò questo, giusto per fare un po' di caos ulteriore nella mia testa, visto che gli alfabeti sono solitamente degli insiemi di simboli bene ordinati e finiti, mentre questo alfabeto numerico sembra sfuggire, sembra sempre mancare la presa sui numeri primi, sui numeri. Quello che mi affascina è uno studio quasi etimologico, come se l'indagine dei numeri primi e lo studio, la lettura dei saggi di chi prima di me, in maniera molto più completa e profonda, si è occupato del problema, come se tutto questo potesse ricondursi a una indagine etimologica, di ricerca di un senso, di una radice, non della parola, ma della matematica stessa. C'è qualcosa di poetico in tutto questo, ed è quello che voglio chiudere nel buio di questa sera.